cosa che intravedi e sono sufficienti a dirti tanto. Chissà che cosa credi, cosa pensi, mentre cammino e non mi vieni incontro. Un punto di domanda sulla mia testa e sul mio percorso. Cosa credi, cosa pensi, cosa chiedi, non rispondi più. Forse io ho troppi strappi ancora da coprire. Forse io sto per tornare al punto di partenza. Se ho messo in pausa la mia vita era soltanto per capirla. E non mi importa di star bene. Tutti i miei ricordi saranno la mia schiena contro il vento. Tutti i miei ricordi saranno un'ancora agganciata al cielo. Tu c'eri quando correvamo contro il tempo. Ora siamo fuori tempo. Ho visto cose per quello che sono davvero. Scambiato spesso acciaio e argento per oro. Mi chiedo cosa credi, cosa chiedi, cosa pensi, non ci sei più. Forse io ho fatto viaggi nelle notti insonni. Forse io ho spalle forti ancora, gli occhi stanchi. Se ho chiesto troppo alla mia vita era soltanto per capirla e accontentarmi di star bene. Tutti i miei ricordi saranno la mia schiena contro il vento. Tutti i miei ricordi saranno un'ancora agganciata al cielo. Tu c'eri quando correvamo contro il tempo. Ora siamo fuori tempo. Tutti i miei ricordi saranno luce sotto un cielo appeso. Tutti i miei ricordi saranno i tuoi, da te non mi difendo. Tu c'eri quando correvamo contro il tempo. Ora siamo fuori tempo. Caselle come fossero dubbi. Quante ore passate a togliere tutti i chiodi dai migliori pensieri andati distrutti. Te li ricordi? Fuori tempo.